Allora, buonasera a tutti e a tutti. Nuova puntata di Entropia Massima. Questa sera il filo rosso di Alberto, ricordiamo 0649 1750 per chi vuole intervenire in diretta. www.ondarossa.info, il sito dove seguire anche le trasmissioni in diretta e cercare podcast delle puntate precedenti. E sempre ricordiamo anche, per sottoscrivere, per dare una mano alla radio, per continuare a farla vivere libera e senza pubblicità, senza padroni, conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Iniziamo quindi trasmissione del filo rosso di Alberto, sempre su clima, tematiche ambientali, col filo dell'occhio dell'economia. Bene, allora, come al solito continuiamo a dare i dati più recenti, le informazioni più puntuali su quello che sono i meccanismi del riscaldamento globale e quindi delle modifiche del clima. Il primo dato importante è che il mese di gennaio, quindi stiamo già entrando nel 2020, mentre la trasmissione precedente avevamo aggiornato i dati al 2019. Il mese di gennaio è stato il più caldo nel mondo dall'inizio delle rilevazioni. E questo dato ha battuto di 0,3 gradi, 0,03 gradi, il record del gennaio 2016, che anch'esso era uno dei quattro anni più caldi, eccetera. In Europa le temperature hanno superato di 3,1 gradi la media del periodo di riferimento 1981-2010, quindi periodo abbastanza accorcio, e però abbiamo superato questa cifra. Quindi tutte le preoccupazioni espresse in ambito dell'IPCC, cioè tutte le preoccupazioni a livello internazionale, continuano a essere confermate, però non danno luogo a nessuna reazione a livello politico. L'altro dato interessante da rilevare, anche se molto parziale, è però che gli esperti dicono che le correnti marine stanno accelerando. Allora, però la spiegazione è molto lunga e complessa, nel senso che è il risultato di analisi fatte in Oceano Atlantico, Oceano Pacifico. L'Atlantico è un po' più lento, soprattutto perché i dati di cui dispongono arrivano solo a 2000 metri di profondità, quindi in pratica gli scienziati del settore dicono manchiamo di tutta una serie di informazioni per poter fare delle affermazioni più sicure. Però dal nostro punto di vista l'elemento interessante è questo, che c'è un'accelerazione delle correnti marine, che voi capite influenzano sia l'atmosfera sia il riscaldamento delle coste, cioè hanno una serie di effetti che adesso non richiamiamo, però sono importanti questi dati da tenere presenti. Poi un altro dato importante è che si è staccato un altro ghiacciaio, un altro iceberg piuttosto grande, che si chiama B49 nel linguaggio dei glaciologhi, che è grande come due volte la città di Washington, cioè non è grandissimo come quello di cui abbiamo parlato le volte scorse. Però quello che è importante è che si è staccato ancora una volta dall'Antartide, quindi è nella zona di Pine Island, dove c'è che questo ghiacciaio che sta in quella zona, che si chiama appunto Pine Island, è la fonte del 25% dello scioglimento in Antartide. Quindi in sostanza il segnale che viene dato da questa informazione è che, diciamo, c'è uno scioglimento in corso in Antartide, ma soprattutto c'è un questo scioglimento come primo effetto sta continuando a far staccare degli iceberg di grandi dimensioni dalla costa. E l'altro altri dati importanti che si possono ricordare per gli ultimissimi mesi è che la temperatura in tutta l'Antartide è arrivata a 20 gradi, cioè più 20 gradi. È una temperatura, come dire, primaverile in Europa, per capirci, e che per lì non si è mai verificata in questi termini, in particolare nella zona di Seymour, nella penisola antartica. Poi la temperatura più bassa raggiunta invece sempre nell'Antartide, che è stata rilevata in una stazione giapponese, è il 23 gennaio, quindi dato molto recente, è meno 53,6 gradi centigradi. Quindi, come dire, ci stanno punte estreme di freddo e punte estreme di caldo in tutta l'Antartide. Quindi significa che, come dire, il clima di quella zona si sta muovendo, no? Ultimo dato, questo invece si riferisce all'Australia, la città più calda degli ultimi mesi. La città più calda è arrivata a 44,6 gradi centigradi. Cioè, una città che si è squagliata, diciamo, al caldo. Proseguiamo. Un altro dato importante è quello dello smog, quindi di tutte le inquinamenti, diciamo, trasportati dall'atmosfera, che nell'anno scorso ha causato 4,5 milioni di morti e la perdita di circa il 3,3% del PIL, cioè del prodotto interno lordo, che è una cifra di 2.900 miliardi di dollari all'anno. Quindi questo dato che cosa significa? Significa che continuiamo a respirare un'aria molto pesante, molto negativa, e cominciamo ad avere delle perdite di redditi nazionali prodotti annualmente molto consistente. Cioè 2.900 miliardi è una cifra estremamente elevata. Per l'Italia, per capirci, si parla di 60 miliardi di dollari, sempre dipendenti soltanto dallo smog e in connessione con il numero di morti premature, cioè persone che dovevano avere una vita più lunga e che non l'hanno raggiunta a causa dello smog. Poi abbiamo avuto in Europa due tempeste che l'hanno attraversata dall'Inghilterra fino giù al Mediterraneo: la tempesta Ciara e la tempesta Dennis, che è un altro elemento importante. Poi c'è un dato che bisognerebbe poi integrare, lo faremo dopo però, cioè in pratica hanno cominciato a controllare la presenza di metano nell'atmosfera, che secondo le sue origini, adesso faccio un discorso un po' generico, però c'è una parte di metano che era prodotto in origine, cioè alcuni decenni fa, era prodotto quasi esclusivamente da diciamo la massa, la biomassa, insomma, cioè emanazioni del bestiame, cioè qualcosa di estremamente naturale. Oggi invece le rilevazioni fanno, attenzione, questo tipo di metano ha una composizione chimica diversa da quello prodotto industrialmente. adesso non mi fate entrare nel dettaglio perché non sarei preciso, però è distinguibile. Quindi il dato che viene segnalato è che oggi il metano che esiste, che si riscontra in atmosfera, è quasi tutto di origine umana, cioè prodotto industrialmente. Quindi con una differenza proprio della composizione del metano in atmosfera. Poi ci sono delle analisi importanti per quanto riguarda il caldo. Attenzione, sembra in contraddizione con tutto quello che abbiamo detto finora, però dal punto di vista dell'agricoltura una temperatura più calda in alcune zone, cioè non in tutte le zone, significa far diventare coltivabili una quantità maggiore di terre. Cioè se si scioglie la neve per tutto l'anno in una certa zona, la parte più vicina a quello che era un ghiacciaio può diventare diciamo coltivabile. Però questo, quindi bisognerebbe anche valutare gli effetti positivi, diciamo, del riscaldamento globale, che però sono particolarmente limitati, perché per esempio appena si comincia a coltivare quelle terre comincia il consumo di combustibili fossili in aumento negli aratri, eccetera, e ci sono dei rischi per la biodiversità e via dicendo. Quindi in sostanza è molto poco vero che un maggior caldo sia favorevole dal punto di vista della produzione. Poi c'è una segnalazione che bisognerebbe approfondire per quanto riguarda le zone umide in Cina, che sono molto importanti, stanno in tutta una serie di zone costiere, eccetera, eccetera. Bene, se ne è perso circa il 40%, almeno limitatamente a quell'area per il quale ci sono dei dati. E quindi questo significa perdita di animali o tutta la parte di perdita di come si può dire, tutta di redditività dei terreni, eccetera, eccetera. Poi se è un dato, questo io ve lo riferisco perché l'ho trovato, che sostiene, una fonte che sostiene che le emissioni di CO2 nel 2019 non sono aumentate o sono addirittura un po' diminuite. Allora, da un punto di vista dell'economia, cioè se teniamo conto che l'economia si è molto rallentata nel corso del 2019, insomma il dato potrebbe essere attendibile. Però purtroppo queste emissioni di CO2 sono talmente, come sapete, in realtà ci mettono 10 anni a salire in atmosfera, eccetera, e quindi molto, cioè l'effetto positivo di un'eventuale riduzione si otterrà fra un certo numero di anni. E quindi io lo riferisco per, diciamo, correttezza, però bisognerebbe inquadrarlo bene nella situazione. Poi altri dati che sono particolarmente vessanti: le locuste hanno invaso Etiopia, Somalia, Kenya e stanno per spostarsi anche in Uganda e Tanzania, e potrebbero arrivare nel Sud Sudan. L'ONU ha chiesto un certo numero di milioni, 76 per la precisione, per fare gli interventi in tutti questi paesi, e finora ne ha ricevuti solo 21. E quello che deve essere tenuto presente è che le locuste in un giorno mangiano quanto l'intera popolazione del Kenya. Non so se come hanno fatto a calcolare questo dato, no? Perché ovviamente la popolazione del Kenya non mangia le piante fredde, diciamo, non cotte, eccetera, però è indicativo della quantitativo di distruzione che apportano gli sciami di locuste, specialmente quando superano una certa quantità, una certa dimensione, soprattutto la durata che restano ferme in un certo territorio. Infine, ultima questione, questo ho letto attentamente ma non sono sicuro di aver capito esattamente. In Val di Susa c'è un progetto per spostare un certo tipo di farfalle tipico di questa zona, di spostarlo in un'altra zona, cioè in sostanza come di ampliare l'areale tipico di queste farfalle. Però è un progetto, quindi a tutt'oggi c'è solo la parte negativa, diciamo, di non danno arrecato a questo tipo di farfalle, cioè una specie molto precisa. Quindi lo dovremmo seguire meglio, lo dovremmo studiare un po' più attentamente. Direi che possiamo fare una piccola breve pausa per poi ritornare fra pochi minuti in voce. Questa è Zaz. Zaz, e on va vous faire Je veux avec Ilan Alabou, Ilan Alabou, Ilan Alabou à la basse et Guillaume Gialet à la guitare. Enchanté, tout le monde. Yes. One, two, three, four. Eccoci di nuovo, 87.9 modulazione di frequenza, onda rossa. Questa è entropia massima, il filo rosso di Alberto, e ritorniamo in voce sulle tematiche ambientali. Bene, questo di cui abbiamo parlato finora erano gli eventi estremi, cioè le cose gravi che stanno succedendo in giro per il mondo. Adesso ho alcuni dati su gli effetti del meccanismo di danno ambientale nel suo complesso, E quindi, cioè, in sostanza, quali sono le conseguenze dei meccanismi? Quindi non denuncio il meccanismo, ma cerco di far capire quali sono i danni effettivamente recati al pianeta. Il primo dato è quello che vi avevo anticipato, quello del metano. Perché fino al 1870 era di origine biologica, quindi, come ho detto, erano biomasse, zone umide e bestiame. Poi è diventato petrolio e gas naturale, cioè la fonte è diventata il petrolio e il gas naturale. Però il punto importante di questa notizia è che sembra che la presenza di metano nell'atmosfera sia dal 25 al 40% superiore alle stime fatte finora. Quindi questo dato lo dovremo tenere presente e controllare, verificare, eccetera. Però se qualcuno ha usato questi dati relativi alla presenza del metano, deve aggiornarli, perché sembra che fossero sbagliati per difetto. Poi il secondo aspetto importante è il consumo di carne bovina, perché c'è una previsione che dice che salirà del 69% rispetto alla produzione attuale entro il 2050. Quindi nel giro di meno di 30 anni dovrebbe aumentare più di circa il 70%, che vuol dire che c'è una spinta molto forte, e soprattutto quello che è grave è quello che succede sui terreni destinati alla produzione di piante e frutti vari che poi servono per il mangime quindi mangime artificiale, nel senso che è naturale ma poi viene trasformato industrialmente e passato come mangime. Allora, in tutta la parte il bestiame grosso, il bestiame bovino, produce il 15% dei gas serra, quindi teniamolo sempre presente, perché è apparentemente naturale, però in realtà è il risultato dell'allevamento intensivo, quindi non è naturale come doveva essere in origine. Poi l'80% dei terreni per la produzione di cose di piante intensive tipo la soia sono destinati al mangime per gli animali, 80%. Quindi quando si parla di sostituire, per esempio, in Amazzonia abbattere gli alberi e fare delle coltivazioni di piante intensive, in realtà non è per aumentare la disponibilità diretta di cibo, ma soltanto quella della disponibilità indiretta di cibo, cioè passando attraverso l'allevamento intensivo degli animali più grandi. Ecco, quindi è tutto un mondo, no? Perché significa che c'è la spinta verso certe piantagioni, la spinta contro le foreste, poi passa per far arrivare la carne, che sappiamo che poi ha degli effetti negativi sulla salute, eccetera. Quindi è tutto il meccanismo che deve essere tenuto presente quando si parla di ridurre la carne oppure qualunque altro tipo di indicazione diamo. Bisogna tener conto di tutto il meccanismo che è in piedi, che deve essere ovviamente smontato, ma che è difficile da smontare. Allora, poi ci sono questi, la sola soia, tanto per fare un esempio, sempre per questi usi affini per gli animali, è passata da 175 milioni di tonnellate del 2000 a 350 milioni di tonnellate di oggi. Quindi questo è il ritmo in cui in 20 anni abbiamo visto trasformare il settore delle materie prime agricole. E poi di questi alimenti se ne sprecano circa il 20%. E anche quello, cioè quello che servirebbe a 1,5 miliardi di persone. Non so se è chiaro, non si può fare questo confronto, però in realtà significa questo, cioè i terreni invece di essere usati per l'alimentazione umana vengono usati solo dopo il passaggio attraverso l'allevamento intensivo e la trasformazione in gran parte industriale. Oh, e poi c'è un piccolo particolare, questo per la prima volta l'ho visto indicato perfettamente, cioè le carni trasformate, cioè affumicate, salate o stagionate, sono sicuramente cancerogene, mentre quelle rosse sono potenzialmente considerate cancerogene. È abbastanza chiara la distinzione? Quindi dobbiamo tenerlo presente, perché noi ne consumiamo poco della carne rossa, però c'è potenzialmente c'è il rischio del tumore. Poi facciamo un salto, un altro prodotto, sempre ritornando un po' al metano. È importante la notizia che il Fridays for Future, almeno in Sardegna, sono contro la metanizzazione dell'isola, che è in corso, ci sta tutto un progetto che stanno cercando di attuare, eccetera, eccetera, e quindi è molto importante che ci sia, come dire, questo intervento. E poi apre un grosso problema, cioè tutto il movimento sta decidendo di identificare una serie di obiettivi, perché il movimento è partito da una richiesta generale due anni fa, rivolta ai politici, di occuparsi del clima. Però cominciare a dare delle indicazioni su cosa bisognerebbe fare il più presto possibile, quindi con il grado relativo di urgenza, è un mutamento che il movimento sta probabilmente già realizzando, forse in alcuni gruppi più presto di altri. Poi qui c'è un dato molto semplice che però ha aperto tutto un problema, cioè in sostanza hanno scoperto che l'Italia ha venduto plastica, rifiuti di plastica, di cui in grossa quantità, cioè 2.880 tonnellate, ma per metà illegali, per metà di questa quantità. E poi dall'altra parte la notizia, la stessa fonte dava la notizia che la Cina ha smesso nel gennaio 2018 di accettare questi rifiuti di plastica, che ha significato per tutte le imprese che erano impegnate in questo campo cercare altre destinazioni. E quindi la Malesia evidentemente è stato uno dei primi paesi presi in considerazione. Però questo bisognerebbe avere molto chiaro quali sono le imprese, quali sono i paesi di destinazione, che tipo di plastica, cioè sono rifiuti, bisogna capire la qualità dei rifiuti. Quindi questo dato non è sufficiente, diciamo, è solo un promemoria per un'analisi più approfondita. Poi abbiamo parlato in una certa situazione, cioè negli Stati Uniti, nel Dakota, però anche le popolazioni locali native in Canada si stanno opponendo contro una, diciamo, gasdotto lungo la costa, e che però passa attraverso i loro territori, che in parte sono anche territori considerati sacri. Quindi ci abbiamo contemporaneamente negli Stati Uniti e in Canada le popolazioni native che si stanno opponendo, quelli del Canada erano contro il raddoppio di un oleodotto già esistente. Questo invece è un nuovo gasdotto che però è in fase di costruzione. E quindi bisognerebbe, qui si apre sempre il problema del come collaborare e che tipo di contatti si possono avere con queste popolazioni che seguono delle logiche molto di zona, molto locali, e che però interessano tutti. E quindi sarebbe importante approfondire parecchio questa cosa. Poi c'è un dato, questo è un elemento per chi si vuole approfondire. La volta scorsa abbiamo parlato di questo disegno di legge, questo provvedimento che il governo brasiliano voleva adottare. Questo governo brasiliano, adesso questa legge si chiama PL 191/20, quindi è recentissima, e che fa riferimento a un fenomeno molto importante. La Costituzione del Brasile nel 1988 aveva indicato 1296 aree da demarcare, cioè da segnare sulle carte geografiche, e da lasciare sotto la tutela di 305 diversi gruppi etnici locali, quindi un grande numero di aree, e che sono diventate invece, in questo, con il nuovo presidente, sono diventate i destinatari di un attacco. Cioè, in sostanza, Bolsonaro parla di privilegi attribuiti a queste popolazioni, mentre erano condizioni minime per la sopravvivenza, e sta, procedendo per via legislativa, cioè vuole fare cambiare completamente il trattamento e modificare il rapporto. E a tutt'oggi si deve anche ricordare che di quelle 1200 e passa aree che dovevano essere demarcate, quelle esistenti sono soltanto 436. Quindi, da un lato sono stati agevolati, tra virgolette, però non completamente, eppure quel poco non basta al meccanismo di sfruttamento dell'Amazon. Quindi questo è, un ulteriore elemento. Un ultimo dato, anzi ce ne sono altri due. Uno è che la xylella, cioè questi famosi animaletti della Puglia, procede, guadagna territorio 25 km all'anno. Quindi non si è fermato il fenomeno, e anzi sta allargando il suo areale, e quindi va verso Taranto, verso aree diverse da quelle precedenti. E quindi il problema è ancora in piedi, bisognerebbe affrontarlo. Ultimo punto, c'è un articolo che ho letto con estremo interesse, però che mi ha lasciato alcuni punti interrogativi. Cioè parla accuratamente dell'effetto del caldo, cioè del riscaldamento globale, sulla diffusione dei microbi, virus, insomma malattie varie, a partire dalla malaria a venire giù. E non arriva a dire niente sul coronavirus, però sì, ci dovremmo forse porre il problema di chiedere, cioè di capire se potrebbe essere stato influenzato la diffusione del coronavirus, contro i quali non abbiamo i vaccini, mentre per malaria, ebola addirittura abbiamo dei vaccini, qui il vaccino non c'è. E però sarebbe importante stabilire l'eventuale collegamento tra andamento del riscaldamento globale e diffusione di questo virus. Non c'ho la risposta, ovviamente, soltanto che questo articolo era fatto molto ampio, approfondito, c'erano tutti i dati, però era scritto evidentemente, prima della diffusione del coronavirus. E quindi varrebbe la pena di approfondire. Bene, rifacciamo un'altra breve pausa musicale per ritornare tra qualche minuto in voce. Dove sei? Forse ti vedo accovacciata gigante dietro la duna, non ti accorgi, spuntano le scarpe. Faccio il giro, ti guardo intera, non ci sei, ma mica è vero. Accovacciata gigante sulla tua schiena, cammino quasi fino a sera, senza pensare prima com'era. Come faremo quando prima poi ritorneremo? Dove sei? Forse ti credo, accovacciata gigante. Sopra la marea non te ne accorgi, spuntano le gambe. Ti cerco intera e se sono in apnea non ci sei, ma mica è vero. Accovacciata gigante sulle tue spalle, riposo quasi fino a sera. Di come mi guardi. Questi erano i tre allegri ragazzi morti, Accovacciata Gigante, dell'ultimo album. E torniamo in voce, Onda Rossa 87.9, stiamo a Entropia Massima e continuiamo a parlare di clima con Alberto, seguendo il suo filo rosso. Allora, questa parte è nuova, nel senso che sto cominciando a prendere in esame anche alcuni interventi che vengono fatti, diciamo, tenendo d'occhio il problema del clima, e soprattutto quindi quelli che, sui quali si può collaborare, ci possiamo impegnare, eccetera. Mi sembra utile richiamarli, poi ognuno deciderà, diciamo, secondo le sue logiche personali o di gruppo. E dall'altra parte quello che sta succedendo a livello, diciamo, delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'Unione Europea. Quindi i dati che vi do sono un po' apparentemente disordinati, però in realtà sono, seguono un filo rosso, insomma c'è un filo, c'è un filo che li collega, però dipende molto poi dal grado di reazione che uno ha. Però andando avanti cerchiamo di essere un po' più sistematici. Allora, il primo punto importante, che mi sembra, è questo. Ci sono vari articoli, alcuni, però è molto difficile poi andare fino in fondo, sulla Unione Europea, perché l'Unione Europea, almeno a livello delle dichiarazioni della presidentessa, eccetera, sembra che ci sia un interesse. Poi in realtà è un po' più complicato, perché poi questo, qualunque tipo di iniziativa deve poi passare attraverso il Parlamento Europeo, insomma ci stanno una serie di passaggi per cui le dichiarazioni non sono esattamente la realtà di un intervento, di una scelta politica, insomma è un inizio di processo. E la stessa cosa avviene per la Banca Europea degli Investimenti, perché decidono di dare la precedenza a un certo numero di progetti, quindi di investimento che favorisce l'ambiente, sostenibili, diciamo, però poi non si sa che cosa questi rappresentano sul totale degli investimenti, e soprattutto se poi questi investimenti hanno realmente dei risultati, eccetera. Quindi è difficile poi dare quindi una valutazione nei nostri termini, cioè che cosa c'è di reale sotto. Però possiamo cominciare. C'è poi un dato importante, quindi per la parte ci sono addirittura 32 progetti che stanno in circolazione, però alcuni di questi progetti sono addirittura ancora in favore delle imprese petrolifere. Quindi bisogna entrare dentro e capire esattamente di cosa si sta parlando. E poi c'è una notizia che però ancora è proprio a livello dell'ipotesi, e che sembra che l'Unione Europea vorrebbe mettere una tassa sulla carne, sul consumo di carne. La cifra che viene data è 25% di aumento del valore della carne, quindi sarebbe, come dire, se fosse vero sarebbe una svolta piuttosto importante. Però ripeto, vale come indicazione ma non come dato di realtà. La seconda cosa che si può citare è una campagna che è stata lanciata da poco, che invece è italiana, che è una legge di iniziativa popolare per una riduzione dei gas serra del 55% entro il 2030. Quindi è la percentuale più alta di cui si è sentito parlare finora, perché si parlava prima della metà, eccetera. Questo 55, insomma, sarebbe un passo avanti molto importante. Quindi è una iniziativa che andrebbe sostenuta, adesso vedremo come fare, eccetera. Però è chiaro, il 55%. Quindi tenetela presente questa percentuale, perché poi se ne parla di cose molto più basse per il 2030 e ancora non così alte entro il 2050. Poi una terza informazione, queste ce ne sono due interessanti, cioè una è che Amazon e il suo presidente ha deciso di destinare 10 miliardi di euro, di dollari, scusate, per iniziative a favore del clima. Allora, la cifra è bella, consistente. Però Bezos, che è questo presidente, ha un patrimonio di 130 miliardi. Ecco, quindi insomma, non dico gli spicci, ma insomma una cifra per lui poco importante. Per noi forse sarebbe interessante avere alcuni di questi fondi, però insomma è importante quello, adesso a parte le battute, quello che è importante è che in alcuni ambienti, cioè le grosse imprese tecnologiche eccetera, si comincia da qualche mese a avere il desiderio, a manifestare il desiderio di essere, diciamo, ambientalmente corretti, no? Che è molto poco, tenendo conto dei danni che hanno fatto, eccetera, eccetera. Però, insomma, c'è questo, deve essere tenuto presente, perché è un fattore di cambiamento. Sì, che è una cosa che si nota in molte. Che è un qualcosa che si nota in molte aziende, ma che molto spesso ancora è a livello del greenwash, cioè nel senso del dare un nome, dare un'apparenza di un tipo di atteggiamento, ma poi andando a parlare poi con le persone che ci lavorano anche dentro, o comunque entrando proprio nel dettaglio di che cosa si fa, ancora si è molto lontani. Esatto. Appunto, il rapporto è fra uno a 130. Poi soprattutto noi continuiamo a essere convinti del fatto che ci vogliono delle modifiche strutturali radicali, cioè i giochini green non servono, quindi sono in realtà della fuffa, insomma, cioè non sono, devono essere tenuti presente politicamente, perché significa che c'è un tentativo di cominciare a occuparsi di questi problemi, però in termini di analisi economica siamo ancora lontani dall'avere indicazioni radicali, cioè il livello di radicalità che è necessario per affrontare questi problemi. Spero che questo sia chiaro a tutti, ma insomma vale la pena di ripetere. Ecco, poi c'è un dato interessante, questo non c'entra molto con l'ambiente, però bisogna tenerlo presente. È un articolino che segnala che dai paesi che hanno ricevuto livelli consistenti di aiuti allo sviluppo, cioè la famosa cooperazione allo sviluppo, eccetera, eccetera, sono anche i paesi che hanno aumentato gli spostamenti di capitali verso i paradisi fiscali. Allora, ovviamente bisognerebbe dimostrare che lo spostamento è strettamente connesso, cioè che è causato realmente. Però è un segnale anche questo di molto interesse, perché molte volte è ancora cooperazione allo sviluppo, eccetera, viene presentata come una delle soluzioni per i paesi del terzo mondo. Mentre questo tipo di informazione dice attenzione a come vengono usati i fondi, quando non addirittura sono semplicemente una copertura per uno spostamento verso i paradisi fiscali. Comunque è uno dei punti che varrebbe la pena di studiare in maniera più approfondita. Senti, poi, prima della chiusura e delle ultime battute, volevo mettere quest'ultimo pezzo. Dura un minuto e un quarto, un minuto e 15 secondi, ma proprio per senza un filo rosso assolutamente, un caos di musiche questa sera. a entropia massima. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse papa sarei allor giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco comisso ne fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. E questo, vabbè, senza bisogno di presentazioni, ma era De André, Se fossi fuoco. Continuiamo, ultimissime battute del filo rosso, sì, di Alberto. Ce ne ho ancora un paio. Cioè, una è che è stato accennato all'idea di fare un piano per il sud, cioè c'è un documento governativo, e quando si legge questo documento ci si rende conto che interventi possono avere un certo interesse, però le cifre destinate sono bassissime in realtà. Cioè, in sostanza, si dice esplicitamente che non potranno essere effettuati investimenti addizionali oltre a quelli già stanziati, e dall'altra parte che potranno utilizzare a questo scopo invece i fondi dell'Unione Europea. Allora bisognerà esaminare attentamente il documento, fare l'analisi dei dati eccetera, però da un lato è importante sottolineare il fatto che intanto ancora non siamo di fronte a un intervento radicale, cioè un tentativo di risollevare realmente il Mezzogiorno. Dall'altra parte, siccome è opportuno tener conto del fatto che addirittura una parte dei fondi dell'Unione Europea finora non viene utilizzata, o comunque non viene utilizzata nella maniera corretta. Quindi se per il Mezzogiorno si decidesse finalmente di utilizzarli tutti e in maniera significativa, anche se le cifre sono insomma abbastanza modeste, potrebbero avere un qualche interesse. Un altro punto che si può sottolineare è che ci sono più articoli, perché c'è stata una classifica dell'ONU dei paesi più felici. Solo che poi, andando a vedere i criteri che vengono utilizzati dall'ONU, in realtà sono dei criteri molto generali, molto poco significativi, e quindi la felicità viene connessa, non so, avere una casa o insomma, cioè cose molto più materiali e molto più capitalistiche di quello che sarebbe in realtà una scelta di felicità. Però, tenendo conto di questi limiti, la Finlandia continua a essere al primo posto dei paesi, diciamo, più felici, mettiamoci le virgolette, e quindi sarà importante verificare prima che cosa i criteri che sono stati seguiti, ma soprattutto come il governo finlandese decide di perseguire certi obiettivi invece di altri. Ecco, questo sempre all'interno di un sistema di tipo capitalistico, ovviamente, però in cui evidentemente una dimensione di interesse sociale più forte della media dei paesi dell'Unione Europea esiste, e quindi con questi limiti è un esempio che bisognerà approfondire. Ci siamo, quindi chiudiamo così questa puntata di oggi di Entropia Massima con questa sera il filosofo di Alberto, sempre 06 49 17 50 per intervenire in diretta ormai per le prossime trasmissioni, e il sito ondarossa.info per seguire la diretta o per sentire le puntate precedenti di questa trasmissione e anche delle altre ovviamente. L'email ondarossa@ondarossa.info è sempre o passate in radio o con una piccola donazione o anche grande volendo sul conto corrente postale 61 80 40 01, ma tutte le indicazioni poi si trovano anche sul sito, per aiutare la radio a continuare a trasmettere così com'è. Un saluto a tutte e a tutti, arrivederci, a risentirci alla prossima puntata di Entropia Massima lunedì prossimo alle 8.